in primo piano. I titoli li trovate declinati in ogni modo, da Berlusconi a Fini e ora dimettiti, così apre il Corriere, Berlusconi Fini guerra totale per Repubblica. Insomma, come detto, di vari tipi, in mutande, titola l'Unità. Stroncato Fini, questo è il titolo del giornale a caratteri cubitali. Il Messaggero Berlusconi Fini è rottura. Per il Riformista a pesci in faccia. Per Libero suicidio riuscito. Per il Fatto Quotidiano è finita. Insomma, questi sono i vari titoli. Il Sole 24 Ore lo mette in prima pagina. Per la verità, l'apertura principale è dedicata alla situazione della Grecia, Europa nel vortice Grecia, mentre di spalla in prima pagina rottura nel PDL tra Berlusconi e Fini, scontro in diretta. Come detto, sono tantissimi i commenti, partirei proprio dal Sole, da Stefano Folli, che abbiamo sentito anche nel nostro GR, scrive oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina: se stiamo alla prima dimensione, quella mediatica, ieri abbiamo assistito a una rottura irreversibile tra Berlusconi e Fini. Sugli schermi televisivi abbiamo visto il Presidente del Consiglio inveire contro il Presidente della Camera, intimandogli di lasciare il suo incarico istituzionale. E abbiamo osservato Fini che dalla platea sfidava Berlusconi a cacciarlo dal partito, perché lui non si sarebbe mai dimesso. Uno spettacolo poco edificante. Chi guarda le immagini dello scontro pensa che siano nati due partiti. Ma non è così, scrive Folli. Lo show aveva soprattutto lo scopo di chiarire agli italiani che il vincitore del braccio di ferro è Berlusconi. Ma poi il documento finale certifica soltanto la nascita di una maggioranza berlusconiana e di una minoranza finiana. Non si parla più della presidenza della Camera. Non c'è un atto formale con cui Berlusconi o qualcuno in suo nome avvia una procedura, ma quale poi, per sfiduciare Fini e toglierlo dalla poltrona di Montecitorio. Insomma, scrive Folli, è ben vero che contro il documento hanno votato solo 11 componenti finiani, piuttosto pochi. Non ci vuole molta fantasia per immaginare che il cammino del Presidente della Camera da oggi sarà tutto in salita. Dovrà sostenere attacchi, subire contumelie, sa che sarà l'eventuale logoramento del governo gli sarà addebitato. Se qualcuno pensa di portare il paese alle elezioni anticipate, non c'è dubbio che il dissidente del PDL si presenta come l'ideale capro espiatorio. Insomma, ci vorrà molta tempra politica per reggere la sfida. Però dice, scrive Folli, una sfida difficile, ma non c'è nel documento finale tante di quelle accuse, per esempio il dimettiti dalla Camera, che invece Berlusconi ha agitato, insomma, davanti alle telecamere, con la risposta "che fai, mi cacci" da parte di Fini. Come detto, i commenti su il giornale molto molto duro, anche perché Fini l'ha attaccato pubblicamente dicendo, insomma, Feltri mi attacca tutti i giorni. È proprio Vittorio Feltri che scrive: arriva il giorno della resa dei conti, Fini ce l'ha con la Lega, Fini ce l'ha anche con il giornale. Ma l'attaccamento alla cadrega, cioè alla sedia, c'è. Fini tocca il fondo quando sfoga la propria antipatia verso il giornale. E ancora nel suo editoriale Feltri scrive: non è contento e amen. Gli uomini non sono mai contenti per oltre 10 minuti e cercano ogni giorno motivi di soddisfazione, sia pure parziale. Fini non riesce a trovarne e se la prende con tutti anziché con sé medesimo. Ormai la convivenza è compromessa. È stata una battaglia inutile, dannosa, uno spreco di tempo. La gente è disgustata. La reputazione del PDL non ne ha guadagnato. Tanto chiasso per niente. Ed ecco qui poi la chiosa: la montagna ha partorito un pidocchio. Questo Vittorio Feltri oggi sul giornale, mentre c'è chi, sia Ezio Mauro, direttore di Repubblica, che Concita De Gregorio, direttore dell'Unità, mettono in primo piano il fatto che per la prima volta, insomma, c'è stato qualcuno che ha attaccato anche sul piano personale Berlusconi in maniera pubblica. Sentite Mauro, in quello stesso spazio televisivo dove era nato 16 anni fa il miracolo berlusconiano, ieri si è scatenato l'inferno del Cavaliere. Il partito è sotto shock per la ferita inferta in diretta al corpo mistico del leader, più ancora che al suo ruolo, per il delitto inconcepibile alla sovranità perenne berlusconiana, per il primo gesto di autonomia e indipendenza del quindicennio, vissuto non solo come rottura, ma come un sacrilegio. Il Cavaliere, abituato alle apoteosi, resta palesemente senza copione sotto lo sguardo delle telecamere degli italiani in uno psicodramma che è insieme privato e di Stato, come tutto ciò che lo riguarda. E così anche con Cita De Gregorio, che inizia il suo editoriale dal titolo «Te lo dico in faccia», così: segnatevi questa data perché l'era del superuomo è finita. Certo, ci vorrà tempo, mesi e forse anni, perché il naturale dibattito interno di un partito diventi veleno, ma è il giorno in cui non si dice più Osanna al re, nella folla uno dice ma è nudo. A Berlusconi non deve essere mai successo niente di simile, di certo non in pubblico. Il mito del sole in tasca, del venditore fortunato, dell'uomo dei miracoli adorato dalle genti, non contempla possibilità di critica. Nessuno tra i suoi ha mai saputo o potuto dire forte imbrogli, sbagli, menti. Ha detto ieri Fini, lo facevano solo sottovoce e quando voltava le spalle. Ora è Fini però che si alza e lo indica col dito della platea sbalordita. Insomma, il primo attacco vero, forte, subito pubblicamente da Berlusconi. Vabbè, ci sono, come detto, tantissimi articoli, tantissime interviste, sul Corriere anche in retroscena, sul Corriere a pagina 6 il premier sollevato, in realtà Fini ha fatto una figuraccia, avrebbe detto finito l'intervento. Mentre ora che succede? Secondo Repubblica, pagina 7, con Francesco Bei, gli auspici di Giuliano Ferrara, che ieri, vi ricordate, il Corriere aveva detto no, ricomponete la situazione, insomma, mettete da parte anche, ha detto a Berlusconi, l'animus, insomma, molto da dominus. Gli auspici di Ferrara non si sono avverati e ora è il momento della caccia all'uomo. Questa parola epurazione si legge anche sulla stampa, pagina 4. Il premier è il super falco, scrive Amedeo La Mattina, ora vuole l'epurazione. Nel mirino il primo da sfiduciare è il capo dei finiani, Italo Bocchino. Per Libero addirittura si avvicinano le elezioni anticipate, scrive Fausto Carioti, la tensione resta altissima, l'ipotesi di scissione è sempre più concreta, è già pronta appunto una mozione di sfiducia contro il vice capogruppo alla Camera Bocchino. Ecco, Italo Bocchino, che tra l'altro Berlusconi ha citato con nome e cognome, insieme a Urso, insieme a Raisi, tre dei finiani, che dice sono andati in TV e hanno dato dell'immagine pessima del nostro partito. Allora, questa è la situazione. Dal PD Pierluigi Bersani fa un'intervista al vice direttore dell'Unità Rinaldo Gianola a pagina 10 e 11. Una rissa mai vista, rischiamo una fase di pericolosa instabilità, un fatto incredibile, lo definisce Bersani, una rissa mai vista. Impressionato dall'eventualità, Berlusconi, secondo Bersani, che si possa fare una discussione vera, democratica nel suo partito. Come finisce questa battaglia? Chiede Gianola. Non so come la aggiusteranno, ma non la risolveranno, perché sui temi di fondo c'è un'incrinatura radicale. Insomma, Bersani che dice ora stiamo a vedere, e il rischio è quello della pericolosa instabilità per il paese. Vabbè, insomma, queste sono le tante, i tanti commenti, i tanti editoriali, ne ho selezionate alcune ovviamente, ma tanto alle 8:15, come detto, subito dopo il GR partiremo con il nostro sondaggio, che potete già votare, dovete già votare come in tanti state facendo. Fini, secondo voi, dovrebbe dimettersi, dovrebbe lasciare il Popolo della Libertà? Dovete votare su radio24.it, ci trovate nell'home page. Per ora il 61% di voi dice di no, ma votate lì, poi alle 8:15 approfondiremo. La politica oggi, se prendete i giornali, vari giornali, Il Giornale, Repubblica, Il Corriere, troverete citato il ministro Scajola, non però per il suo ruolo istituzionale da ministro dello sviluppo economico, ma perché? Perché il suo nome spunterebbe, lo leggo dal giornale, nell'inchiesta degli appalti sul G8, quella della famosa, tra virgolette, cricca, quella che coinvolge anche Bertolaso, che insomma ha coinvolto e sta coinvolgendo anche Bertolaso. Appalti G8, i PM provano a coinvolgere Scajola. Si legge a pagina 13 del giornale. L'indiscrezione trapela, fatica, così come a fatica viene poi confermata in ambienti giudiziari. Fra le carte dell'inchiesta fiorentina sugli appalti delle grandi opere spunterebbe Claudio Scajola. Di cosa si tratta? Beh, il giornale dice non è dato molto a sapere di cosa si tratta. In realtà su Repubblica e sul Corriere c'è qualche dettaglio in più. Repubblica, G8 dal costruttore della cricca, 500.000 euro a Scajola. Si tratta sostanzialmente di questo secondo Repubblica. Guido Anemone, uno degli indagati per la vicenda del G8, avrebbe dato a un architetto Angelo Zampolini, una somma considerevole, finita sul suo conto attraverso questi conti. 500.000 euro di questa somma ben più ampia che sarebbe stata data a Zampolini sarebbero poi finiti per comprare l'appartamento della figlia del ministro Claudio Scajola. Questa è la ricostruzione che fa in queste due pagine Repubblica, 14 e 15, secondo quelle che sono le indiscrezioni degli inquirenti. Anche il Corriere, inchiesta G8, spunta la casa della figlia di Scajola. C'è la vendita di un appartamento per la figlia del ministro Scajola dietro un'operazione sospetta segnalata dalla Banca d'Italia. Una circostanza emersa la scorsa settimana. Durante l'interrogatorio a Bertolaso è stato chiesto: lei ha conoscenza di rapporti tra Anemone, cioè appunto il costruttore finito sotto inchiesta, e il ministro Scajola? E Bertolaso ha detto: nulla ha saputo dire. Da cosa nasce tutto? Da questa segnalazione di Banca Italia per 800.000 euro in contanti a carico del commercialista Stefano Gazzani, appunto, e dell'architetto Zampolini. Si scopre poi che questi conti sarebbero riconducibili allo stesso Diego Anemone, il costruttore, che con questi soldi sarebbero stati comprati un appartamento, uno per il figlio di Angelo Balducci, l'altro indagato, il provveditore alle grandi opere, e uno invece per l'acquisto di un appartamento intestato alla figlia del ministro Scajola. Ora, secondo Fiorenza Sarzanini sul Corriere, si lavora per scoprire che legame ci sia tra l'imprenditore e il ministro delle attività produttive. Queste ovviamente sono tutte le indiscrezioni che dovranno poi essere o confermate, smentite, però le trovate sui giornali. Così come trovate sui giornali, trattato un po' da tutti, la vicenda che riporta a la notte tra il 30 e il 31 agosto dell'anno scorso per quel che riguarda l'immigrazione, quando tra il 30 e il 31 agosto dell'anno scorso un'imbarcazione della Guardia di Finanza fece salire a bordo 75 migranti, ma invece di portarli in Italia li consegnò alle autorità libiche. È la vicenda dei cosiddetti respingimenti voluta dal Ministero degli Interni. Ebbene, che cosa è successo? Per questa vicenda un giudice, un PM a Siracusa, credo, ha deciso che l'alto prefetto del Ministero degli Interni Rodolfo Ronconi e il generale della Guardia di Finanza Vincenzo Carrarini dovranno rispondere di un reato, perché il respingimento è considerato illegale. Respingimento illegale, prefetto e generale a processo, rinviati a giudizio dalla procura di Siracusa per violenza. La nave era in territorio italiano, dovevano accoglierla, ma c'è ovunque questo titolo: salvarono i clandestini ma andranno alla sbarra. La tratta così il giornale. Il prefetto di Siracusa e un generale della Guardia di Finanza raccolsero 75 africani in mare, li riaccompagnarono in Libia. Ora sono accusati di violenza privata per non aver chiesto a ognuno se fosse rifugiato. Cioè, secondo il procuratore Ugo Rossi, fu impedito in linea teorica agli extracomunitari di far valere i propri diritti e ottenere lo status di rifugiati politici. L'inchiesta è finita, i due funzionari dovranno rispondere appunto di questi reati. Anche se su La Stampa, a fianco a questa notizia di cronaca, c'è Guido Ruotolo e l'Italia si scopre orfana dei clandestini, cioè impicchiata nell'ultimo anno gli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. Erano 31.000 del 2008, 29 dei primi 4 mesi di quest'anno. I clandestini in Italia sono scomparsi. Quelle immagini delle carrette cariche di fantasmi, senza speranze, che noi siamo abituati a chiamare e che abbiamo chiamato per anni clandestini, arrivavano alla luce del sole chiedendo aiuto. Bene, quelle immagini sono consegnate alla storia. Le stime ufficiose del Viminale parlano ormai di un crollo degli ingressi. Insomma, questo è l'analisi di Guido Ruotolo, anche con un'intervista, tra l'altro, allo stesso prefetto Rodolfo Ronconi, che da ieri è finito sotto inchiesta per questa vicenda di Siracusa, che sintetizza: è stata applicata la legge, è stato fatto un rispetto degli accordi, soprattutto della Libia, funziona tutto molto bene. Da oggi sono, dal 1 gennaio a oggi sono sbarcati davvero 29 clandestini, 29. L'anno scorso erano 2.673. Questo fronte, che è il fronte minoritario peraltro della questione dell'immigrazione illegale, minoritario perché la maggior parte non viene via barca, la stragrande maggior parte non viene via barca, però questo aspetto è fermato almeno dal punto di vista dei numeri. Alcune segnalazioni per quel che riguarda l'economia. Come detto, l'apertura principale del Sole 24 Ore in realtà è dedicata alla situazione delicata della Grecia. Europa nel vortice Grecia. Ieri i mercati hanno rafforzato la scommessa su una prossima insolvenza dello Stato greco, perché c'è stata questa doppia bocciatura dei conti di Atene, prima di Eurostat, che ha rivisto al rialzo dal 12,9 al 13,6 del PIL il deficit pubblico greco del 2009, mentre Moody's ha abbassato il rating da A2 ad A3, il rating del debito sovrano del paese. Tra l'altro a pagina 2 si parla di come le borse hanno reagito, male, e Vittorio Darold da Atene spiega che spunta, a fronte di questa situazione ancora aggravatesi di colpo, in una giornata definita da Titanic proprio nell'Egeo, la borsa di Atene che sprofonda il 4%, cosa spunta? Spunta l'idea di un prestito immediato, un prestito ponte, perché il prestito, da il finanziamento dell'Unione Europea e del Fondo Monetario da 45 miliardi a una gestazione più lunga, e quindi spunta l'idea di fare un prestito ponte a breve termine che possa in qualche modo dare un po' di respiro ai conti pubblici di Atene. Mentre c'è ancora molto sui giornali, ha suscitato un dibattito, certo, anche per la firma ieri comparsa sul Foglio, che l'articolo che abbiamo ampiamente letto di Carlo De Benedetti, l'editore di Repubblica, che era la seconda volta che scriveva per il Foglio un articolo, però una volta aveva scritto su Barack Obama, credo qualche mese fa. Questa volta Carlo De Benedetti, l'editore di Repubblica, ha scritto sul Foglio due intere colonne in prima pagina, parlando di tasse, di riforme del fisco, eccetera. Ha portato un ampio dibattito con una serie di economisti. Il Foglio oggi ovviamente ci ritorna, tutta una serie di economisti, chi è a favore, chi è contro a De Benedetti, anche il Riformista. De Benedetti apre a Tremonti, spiazza il PD, secondo Libero, addirittura secondo Franco Bechis De Benedetti guarda il futuro e abbandona il PD, questo scrive Franco Bechis, e invece abbraccia in qualche modo la linea di Tremonti. Trovate molto su questo, anche se sul fronte della crisi trovate anche a pagina 11 del Sole un dato non certo confortante: stop per 3.000 imprese, è la maggior recessione mondiale degli ultimi 80 anni che ha obbligato un numero crescente di aziende a chiudere i battenti, e questo lo sappiamo, ma ora ci sono anche i dati che parlano chiaro. Nel 2009 le società entrate in procedura fallimentare sono risultate 11.477, sono il 26,6% in più rispetto all'anno precedente, quando il numero del default si era fermato a poco più di 9.000 imprese che avevano chiuso. Dunque, insomma, i dati sono sconfortanti. Nel primo trimestre 2010 i fallimenti balzano del 46%. Stop per 3.000 imprese sul Sole 24 Ore. La situazione non è certamente facile, come sapete. Oh, le segnalazioni conclusive: troviamo la vicenda in Cera 24, l'abbiamo sentita, il grande capitano Paolo Maldini. Maxi Bustarella per pagare meno tasse, a pagina 24 del Corriere, indagato Maldini, nei guai anche la moglie del calciatore, almeno 185.000 euro in nero, più un onorario di altri 40.000 euro l'anno per sentirsi garantire che il fisco non avrebbe messo il naso nell'immobiliare Velvet, i cui soci principali erano appunto Maldini e la moglie. Questa è l'accusa della Procura di Milano, ieri la chiusura delle indagini, insomma, non una bella vicenda. Mentre la disavventura incredibile è capitata a Claudia Pandolfi. Io voglio chiudere qui, la trovate ovunque, la leggo a pagina 25 di Repubblica. Una vicenda incredibile: è stata paparazzata, era all'interno di un negozio con un'altra persona, è uscita per cercare, insomma, di dire al paparazzo Mauro Terranova di smetterla. Quello che è successo poi è incredibile, ovviamente da accertare. Pare che il fotografo, per scappare, gli abbia spruzzato del qualcosa di irritante negli occhi. A questo punto Claudia Pandolfi ha perso, insomma, non vedeva più, si è aggrappata alla macchina del paparazzo che è partito, l'ha trascinata, ha trascinato l'attrice Claudia Pandolfi per qualche metro, è caduta a terra ed è stata poi portata all'ospedale, è stata operata d'urgenza per una compressione toracica. In serata è stato arrestato il paparazzo per lesioni aggravate, portate al carcere di Regina Coeli, secondo le parole di due testimoni che lo avrebbero inchiodato. Insomma, uno tra l'altro non nuovo, nel 2007 questo Mauro Terranova era già incappato, secondo Repubblica, in un incidente del mestiere, picchiato insieme a un collega da Gigi D'Alessio dopo essersi appostato davanti alla sua villa alloggiata. Scontro con il paparazzo, la Pandolfi finisce all'ospedale ferita, a pagina 25 di Repubblica, ma la trovate un po' su tutti i giornali, nella pagina soprattutto degli spettacoli. Insomma, questa vicissitudine finita così per via di un paparazzo.